Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele e grazie per il supporto questa sera. Buonasera. E in collegamento Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e tutti gli ascoltatori. Dunque Alessandra, un giro di boa come sempre al passo con l'attualità. Questa sera riprendiamo un tema che abbiamo trattato esattamente un anno fa. Esatto Annalisa, un anno fa. Giustizia è fatta, dichiarava il presidente americano Barack Obama il 2 maggio di un anno fa. Poche ore prima in Pakistan i Navy SEALs americani avevano ucciso Osama Bin Laden, l'incubo americano e non solo degli ultimi 10 anni, il terrorista più ricercato del mondo. Dopo l'11 settembre, fino al giorno della sua uccisione, la figura di Bin Laden è rimasta un mistero, a tal punto che molti dubitavano che fosse ancora vivo. Dopo la sua morte, il giallo rimane a proposito della sua permanenza in Pakistan, a fianco di una prestigiosa accademia militare. Cosa è successo in quest'anno senza Bin Laden? Quali le ripercussioni del Blitz di un anno fa sulla strategia americana e sulla strategia della NATO in Afghanistan e nella lotta al terrorismo? Ne parliamo questa sera con un amico di Giro di Boa. Annalisa, ci vuoi presentare il nostro ospite? Il nostro ospite questa sera è Gianandrea Gaiani. Buonasera Gianandrea e bentornato a Giro di Boa. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Gianandrea Gaiani ha seguito sul campo tutte le missioni militari italiane, dirige Analisi Difesa, collabora con i quotidiani Il Sole 24 Ore, Il Foglio e Libero ed è opinionista del giornale Radio Rai e Radio Capital. Ha scritto Iraq-Afghanistan, guerre di pace italiane. Dunque Gianandrea, un anno dopo il raid americano che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden, ecco, quali sono state le implicazioni di questo fatto per la struttura e l'organizzazione di Al-Qaeda? Quali sono ora le capacità operative dell'organizzazione terrorista? Beh, tutti gli analisti dell'intelligence occidentale sottolineano il fatto che Al-Qaeda già fosse in declino come capacità terroristiche su vasta scala già prima che Bin Laden venisse ucciso, e alcuni anche all'interno di Al-Qaeda, alcuni prigionieri catturati, uomini di Al-Qaeda catturati, avevano già detto da tempo che non era più Bin Laden a guidare l'organizzazione. Di certo possiamo dire che, considerato che questa guerra, la guerra afghana, la guerra contro Al-Qaeda, gli americani la cominciano dopo l'11 settembre, anche se in realtà prima si era già combattuto, c'erano già stati dei tentativi, degli attacchi di Al-Qaeda agli americani alla fine degli anni 90 e delle rappresaglie statunitensi, ma la guerra vera contro Al-Qaeda comincia dopo l'11 settembre. Possiamo dire che gli Stati Uniti non hanno più subito attacchi sul loro territorio, non certo comunque di quella portata. Al-Qaeda ha colpito in Europa, a Madrid nel 2004, l'anno dopo a Londra, ma dopo quei due attentati non è più riuscita a colpire pesantemente l'Occidente, quindi anche il continente europeo. Possiamo dire oggi forse che la strategia di Bush, la ricordiamo tutti, quella di portare la guerra ad Al-Qaeda sul suo territorio, sul suo campo, inizialmente l'Afghanistan, poi anche l'Iraq, che mobilitò le forze di Al-Qaeda, ricordiamo l'organizzazione Al-Qaeda in Mesopotamia che diede filo da torcere ai governativi iracheni e anche soprattutto alle forze americane. Beh, quella strategia di portare la guerra dove Al-Qaeda era forte ha avuto un successo, o quantomeno quello di impedire che si verificassero altri pesanti attentati negli Stati Uniti o più in generale contro l'Occidente. Detto questo, l'alleanza che consentì ad Al-Qaeda di stabilirsi e di organizzarsi in Afghanistan, quella con i talebani, quella continua ancora, anche se anche in questo caso molti report riferiscono che ci sono diversi screzi fra i talebani afghani e le forze internazionali islamiche legate ad Al-Qaeda che combattono contro gli occidentali, ma a dir la verità ci sono diversi screzi anche all'interno della struttura stessa dei talebani. Gianandrea, per tornare agli eventi di un anno fa, tu scrivevi sul tuo blog su Panorama: Osama Bin Laden è morto ma molti conti non tornano, a proposito del blitz delle forze speciali della Marina statunitense nel quale ha perso la vita. Si è fatta chiarezza in quest'anno su come Osama sia morto e sull'operazione stessa? Beh, sai, sull'operazione addirittura si sta realizzando un film negli Stati Uniti e che addirittura sembra abbia avuto il vantaggio di accedere ad alcune informazioni all'epoca segrete ovviamente sull'operazione. Proprio in questi giorni, nella ricorrenza del primo anniversario, sono usciti negli Stati Uniti diverse ricostruzioni e qualche dettaglio in più è stato possibile chiarirlo. Io credo che l'unica cosa certa è che il successo di questo blitz è dovuto al fatto non solo che qualcuno degli emissari di Al-Qaeda era stato individuato e quindi seguendo lui si è arrivati a Bin Laden e al suo covo nella città di Abbottabad, appunto, come tu ricordavi prima, a poche centinaia di metri da un'accademia militare dell'esercito pakistano. Ma il grande vantaggio che ha conseguito questo successo è stato quello di organizzare l'operazione in maniera blindata, senza informare né le forze afghane né tantomeno le autorità pakistane, e questo ha consentito ai Navy SEAL di correre parecchi rischi, perché hanno sorvolato per decine di chilometri il territorio pakistano, ma di arrivare sull'obiettivo cogliendo di sorpresa non solo Bin Laden ma anche le stesse forze pakistane, che ora che hanno messo parecchio tempo per capire cosa stava succedendo e per organizzare un intervento militare, ma a quel punto i Navy SEAL se ne erano già andati con il cadavere di Bin Laden. Quello che rimane incerto, lo ricordiamo tutti, è la versione ufficiale: Bin Laden ucciso mentre abbozzava una resistenza all'interno dell'edificio nel quale viveva con alcuni suoi familiari e i suoi fedelissimi, e poi il suo cadavere portato in una base afghana, probabilmente Jalalabad, da dove era partita l'operazione, e poi su una portaerei nell'Oceano Indiano e da lì tumulato in mare. Questo ovviamente è la versione ufficiale, che ha lasciato e lascia anche oggi, un anno dopo, parecchie perplessità sul perché una vittoria del genere non sia stata completata, mostrando almeno a qualche giornalista o a qualcuno che potesse poi qualcuno neutrale che potesse poi raccontare all'opinione pubblica il cadavere del nemico pubblico numero uno. Al di là del perché sia stato tumulato in mare, credi che sia un'ipotesi realista? Qui è difficile poter dare delle risposte. La versione ufficiale della Casa Bianca è stata questa: l'abbiamo seppellito in mare per evitare che ci fosse una tomba e quindi un posto dove i suoi fedeli potessero celebrarlo anche dopo la morte, e quindi farlo diventare un martire, ma anche con un luogo simbolico dove venerarlo. È una versione che in realtà non convince più di tanto, perché invece mostrare il cadavere del nemico ucciso ha comunque un significato importante, lo ha in tutte le guerre. Non ci dimentichiamo l'uccisione, l'impiccagione di Saddam Hussein in Iraq da parte delle autorità, delle nuove autorità irachene, e non ci dimentichiamo cosa è accaduto in Libia solo l'anno scorso. Insomma, diciamo che questa versione ufficiale, anche se non abbiamo prove per dire che è falsa, però lascia aperti molti dubbi e molte perplessità. Anche perché bisogna ricordare anche questo grande successo di Obama, della sua amministrazione, forse l'unico grande successo di Obama, che si è ritirato dall'Iraq e oggi sta organizzando la fuga, tra virgolette, diciamo, dall'Afghanistan. Obama è stato sempre, tutti gli hanno riconosciuto, una grande capacità di mediatica, di trasformare anche piccoli successi in grandi successi utilizzando l'arma mediatica. In questo caso paradossalmente sul piano mediatico ha fatto un flop, perché ci ha raccontato una bella storia, sicuramente con qualche dettaglio importante, ma è mancato il colpo di scena, cioè il corpo appunto di Osama Bin Laden da mostrare all'opinione pubblica e al mondo come simbolo della vittoria americana. Gianandrea, stavi parlando di fuga dall'Afghanistan. La NATO si sta infatti preparando al progressivo disimpegno militare dall'Afghanistan. Entro la fine del 2014 il controllo della sicurezza sul territorio verrà progressivamente trasferito ai militari afghani, anche se le forze alleate, anche se la NATO ovviamente continueranno a supportare il paese, sicuramente gli stati alleati lo faranno da un punto di vista finanziario e poi contribuiranno all'addestramento delle truppe afghane. Tu hai recentemente scritto che è a rischio la difesa del paese dai talebani. Quali sono le incognite che pesano sul ritiro della NATO? Ma è il fatto che la transizione, come la chiama la NATO, cioè il passaggio delle consegne, dei compiti di sicurezza dalle forze alleate, oggi 130.000 soldati, ai 350.000 poliziotti, attualmente sono poco più di 300.000, dovrebbero diventare 350.000 poliziotti e soldati afghani, non ha molte speranze di avere successo, ma le ragioni sono evidenti. I 130.000 soldati alleati sono professionisti in servizio da molti anni, con grande esperienza, in particolare i 90.000 americani hanno già alle loro spalle molti turni di servizio, e per gli americani vuol dire un turno di servizio un anno in Iraq e in Afghanistan, hanno un vasto una disponibilità di mezzi incredibile, basti pensare solo nel settore dove ci sono gli italiani, l'ovest dell'Afghanistan, gli alleati schierano 80 elicotteri, gli afghani ne hanno 4, pensare che fra un anno, perché nel 2013 le forze alleate cesseranno di combattere e ridurranno sensibilmente le loro forze, quindi cesseranno ad avere un ruolo nei combattimenti, questo è il piano della NATO, e nel 2014 si ritireranno. Pensare che dove oggi operano con fatica 80 elicotteri alleati, domani potranno fare lo stesso lavoro 4 elicotteri afghani, magari anche in difficoltà con la manutenzione, è assolutamente impossibile ritenere che ci sia una transizione efficace. E del resto le forze afghane non sono molto addestrate, ma sono anche poco affidabili, lo vediamo dal numero sempre più elevato di soldati alleati che vengono uccisi da afghani in uniforme, che siano soldati che hanno cambiato idea e che hanno deciso che gli alleati sono nemici o che siano talebani infiltrati, poco importa, sono già 20 i militari alleati solo dall'inizio dell'anno di quest'anno, quindi nei primi 4 mesi di quest'anno, uccisi dalle forze afghane. E già ci sono informazioni che dicono che in diverse zone i comandanti afghani hanno firmato accordi con i talebani in base ai quali, accordi di fedeltà, nel momento in cui le truppe alleate se ne andranno loro non opporranno resistenza al ritorno dei talebani. Non ci sono molte prove, sono voci, sono informazioni che arrivano, però è anche molto plausibile. Io ho visitato diverse aree, l'anno scorso ero in Gulistan, forse la zona più difficile nella provincia di Farah del settore italiano, dove sono morti anche molti soldati italiani, e lì c'erano in queste due basi c'erano 200 militari italiani e poche decine di afghani, soldati e poliziotti. Pensare che questi uomini, poche decine di uomini che non possono neanche ricevere rifornimenti perché non avendo elicotteri la strada è completamente sotto il controllo dei talebani, pensare che queste poche decine di uomini possano domani combattere contro le forze talebane è assolutamente assurdo. Quindi io credo che in realtà la NATO stia mettendo a punto un piano che è quello che tutti i paesi occidentali vogliono, cioè l'exit strategy, il disimpegno da una guerra che ormai non affascina più nessuno e soprattutto comporta difficoltà perché le opinioni pubbliche in Occidente, in America, ma non solo in America, anche in Europa, sono stanche di questa guerra. E quindi è un disimpegno onorevole, ufficialmente continueremo a sostenere l'Afghanistan, ad addestrare le sue forze, ma io credo che in questo momento le forze afghane avranno la capacità di resistere forse solo poche settimane o pochi mesi a un'immaginabile controffensiva talebana che si scatenerà probabilmente dopo il ritiro del grosso delle forze alleate. Obama ieri in Afghanistan parlava del bisogno di finire la missione iniziata in Afghanistan e terminare la guerra in maniera responsabile. Come si può terminare la missione iniziata nel 2001 in modo responsabile, soprattutto alla luce di quello che ci hai appena raccontato? Obama questa guerra l'ha persa nel momento in cui ha inviato, paradossalmente, nel momento in cui ha deciso, dopo lungo tergiversare, 3 mesi di indecisione, ha infine deciso di mandare i rinforzi. Ce lo ricordiamo, nel 2010 30.000 rinforzi considerati dai militari necessari per dare una spallata finale alle forze talebane, e nel momento in cui li ha mandati ha detto però dal 2011 cominceremo a ritirarli. Ecco, nel momento in cui una guerra, una delle due parti decide quando terminerà di combattere, la guerra l'ha persa, perché proviamo a immaginarci se nella seconda guerra mondiale nel 1943 Churchill, Roosevelt e Stalin avessero deciso ufficialmente, dicendolo al mondo, beh, noi continueremo a combattere la Germania nazista fino al luglio 44, poi si fermeremo. Il mondo sarebbe molto diverso da quello che è oggi, nel senso che le guerre si combattono finché il nemico non è sconfitto, finché non si è sconfitti. Stabilire una data finale di un conflitto significa solo dire all'avversario, beh, che se resisti ancora un po' noi ce ne andremo e molleremo, ed è quello che sta accadendo. Diciamo che ci sono due tipi di valutazione. Quella militare dice che le valutazioni militari dicono che questo ritiro preannunciato e sta regalando la vittoria ai talebani, o comunque consentirà ai talebani di poter giocare un ruolo importante in Afghanistan in futuro. E sul versante politico la priorità di Obama e anche quella delle leadership occidentali oggi non è vincere quella guerra, ma è uscire da quella guerra per evitare perdite sempre più difficili da giustificare alle opinioni pubbliche e per ridurre i costi, che non sono indifferenti. L'Italia spende circa 750 milioni di euro all'anno per mantenere 4.000 soldati in Afghanistan, gli Stati Uniti hanno speso nel 2011 100 miliardi di dollari per mantenere 100.000 soldati in Afghanistan. Gianandrea, hai parlato prima dell'Italia, quindi truppe italiane schierate principalmente nell'ovest del paese, hai ricordato adesso 4.000 soldati. Ti vorrei chiedere se puoi spiegare ai nostri radioascoltatori appunto in quale ruolo sono impegnati i nostri militari, se magari puoi fare riferimento alle esperienze che tu hai avuto sul campo e sicuramente riferimento alle numerose interazioni che hai avuto con i nostri militari quando sei stato laggiù. Sì, io in questi anni ho visitato spesso l'Afghanistan e ho seguito in particolare il contingente italiano e devo dire che le vicende del contingente italiano sono un po' un paradigma di quello che è la situazione delle forze alleate in Afghanistan. Ci sono quattro reparti da combattimento che hanno faticato in questi anni in diverse aree dell'ovest afghano a bonificare aree, a liberare villaggi, a creare zone sicure per la popolazione. Lo hanno fatto spendendo molti soldi e anche lasciando sul campo 50 caduti italiani dall'inizio di questa guerra. E non dimentichiamoci, gli alleati hanno avuto in totale quasi 3.000 morti in 10 anni di guerra. Non sono tanti se parliamo di guerra, sono tanti per la percezione che questa guerra ha presso l'opinione pubblica. E hanno svolto un lavoro importante gli italiani, perché sono riusciti con numeri non elevatissimi a creare zone di sicurezza importanti nella regione occidentale, però come per le altre forze alleate questi sforzi rischiano di venire vanificati, anzi verranno vanificati, visto che il piano ormai è già stato delineato, dal progressivo ritiro che comincerà proprio dalle zone più calde, dove invece sul piano militare sarebbe necessario forse restare fino all'ultimo per continuare a dare una mano alle forze afghane nelle zone dove la presenza talebana è più forte, ad esempio la zona di Farah o nel nord del settore italiano a Bala Murghab. Invece per un piano militare che prevede di abbandonare prima le aree periferiche per concentrare le forze a Herat, dove c'è la grande base e anche l'aeroporto, dal quale quindi logisticamente si può anche non solo far affluire materiale, ma si può anche evacuare uomini e materiali, paradossalmente abbandoneremo le aree dove i talebani sono ancora forti e dove i talebani hanno ucciso un buon numero di soldati italiani. Quindi il lavoro svolto in questi anni dagli italiani, una parte di questo lavoro, verrà vanificato da un ritiro che oggi è sicuramente prematuro, ma non perché i tempi siano, perché bisogna star là ancora degli anni o perché qualcuno dica bisogna starci altri 10 anni, no, solo altri 2. In realtà è prematuro perché le forze afghane non sono in condizioni di poter reggere da sole anche sul piano pratico le offensive talebane. I talebani colpiscono in particolare con incursioni e con ordigni esplosivi pensati lungo le strade. I nostri uomini, mezzi italiani ma anche quelli della NATO, si muovono su mezzi protetti contro questi ordigni. Io ho visto le truppe afghane in movimento su dei pick-up civili con una colorazione vagamente militare e questi sono i mezzi standard dell'esercito afghano, e con questi mezzi i talebani li faranno a pezzi ogni volta che entrano su una strada. Quindi insomma, pensare che il lavoro svolto in questi anni verrà vanificato lasciando tornare tutto come era prima, ovviamente sul piano militare credo che debba destare delle perplessità e anche qualche amarezza. Poi è chiaro che la ragion politica ha sempre la priorità. Ti volevo chiedere, Gianandrea, cosa ne pensi dell'impegno dell'Unione Europea in Afghanistan? Non se ne parla molto nei media, ma l'Unione Europea è presente in Afghanistan con una missione che si chiama EUPOL, il principale obiettivo è, come sappiamo, aiutare le forze afghane nel migliorare la loro capacità e la loro efficienza, soprattutto attraverso formazioni. Hai avuto modo di incontrare EUPOL e che cosa pensi del loro operato? Ma io credo che l'Unione Europea sul piano militare valga poco e in Afghanistan lo ha dimostrato con una missione che ha il compito di addestrare la polizia, che è un compito importante, fondamentale. Il problema è che una cosa, credo che sia una missione civile, non sia sì, certo, sì, una missione civile, perché appunto è rivolta ad addestrare la polizia, quindi è composta da funzionari di polizia, non da militari della NATO, anche se ci sono alcuni paesi come l'Italia che hanno forze di polizia che sono anche a statuto militare, in questo caso i carabinieri che sono, quello che è importante sottolineare è che la missione della polizia, per addestrare la polizia, è un'operazione che sì, ha un suo valore, però viene fatta non sul campo, viene fatta a tavolino, nel senso che formare dei poliziotti, addestrarli, vuol dire poco in un paese come l'Afghanistan, sia perché io ho seguito anche delle attività di addestramento della guardia di frontiera afghana, che ha compiti simili alla guardia di finanza, insomma, il problema è che la maggior parte di queste persone sono analfabete. Allora pensare di addestrare, proviamo a immaginarci un poliziotto che non sia in grado di leggere un codice penale o il codice della strada, che non sia in grado di leggere, ovviamente se non sa leggere non sa neanche scrivere un rapporto, cioè questo è lo standard dei poliziotti afghani, per lo più la loro affidabilità è considerata scarsa dalla popolazione perché il loro principale scopo solitamente è quello di fermare delle macchine o dei passanti e chiedergli dei soldi, insomma addestrarli quindi è importante, motivarli, però c'è una carenza di base, anzi ce ne sono due, la prima è che la gran parte del personale afghano di polizia non è in grado appunto di leggere e scrivere e quindi è difficile poterlo addestrare, almeno secondo gli standard che noi abbiamo quando pensiamo all'addestramento e alla formazione. L'altro punto è che questi uomini andrebbero affiancati sul campo, cioè andrebbero affiancati quando vanno in operazioni, quando vanno a contrastare i narcos, che ovviamente in Afghanistan il narcotraffico è una parte preponderante della criminalità, e avrebbero bisogno di essere affiancati così come le truppe della NATO hanno dei team che affiancano i reparti militari afghani. Gli americani hanno creato qualcosa, non ovviamente fuori dall'ambito della missione UE, che sono dei team di consiglieri che affiancano la polizia afghana. L'Unione Europea non è riuscita a fare questo. Io credo che comunque su tutti i teatri operativi bellici degli ultimi anni, vediamo anche la Libia l'anno scorso, l'Unione Europea non ha mai brillato per capacità di effettuare operazioni che abbiano avuto un forte rilievo, un forte impatto sull'andamento dei conflitti. E l'Afghanistan non è un'eccezione, ecco, credo. Sì, però per fare, diciamo così, le riforme come le hai preventivate tu, bisogna partire da un cambiamento nella società, dunque aumentare l'istruzione, così poi si avranno poliziotti in grado di scrivere rapporti, come giustamente precisavi tu, e questo è, credo che sia un cambiamento che richiederà non anni ma decenni. Cosa ne pensi? Infatti, vedi, io credo che il grosso difetto di questa operazione dell'Occidente, il grosso gap che l'Occidente ha mostrato nella guerra in Afghanistan, anche in quella irachena, ma in quella in Afghanistan in particolare, è che una guerra come questa, con l'obiettivo che ci siamo dati all'inizio, che era quello non solo di sconfiggere Al-Qaeda e cacciare i talebani, ma poi di fare nation building, cioè di costruire una nazione dandole delle leggi, ma anche un'istruzione alla popolazione, e costruire uno Stato in un paese che invece è stato sempre dominato dalle tribù, perché poi questo è l'Afghanistan. Questo tipo di operazioni noi occidentali l'abbiamo fatto per secoli, quando avevamo gli imperi coloniali, ce lo siamo dimenticati, oggi gli americani ci vogliono insegnare queste cose, ma noi europei abbiamo costruito degli stati in Africa, in Asia, i nostri imperi coloniali, dove stavamo per secoli, o comunque per decine di anni, in un paese con un numero di truppe e di funzionari governativi abbastanza limitato, impiegando però truppe locali e cercando di consolidare un controllo del territorio e lasciare un'impronta anche per lo sviluppo di quel paese, ovviamente incassando le risorse di quel paese come contropartita. Era un'epoca diversa, era l'epoca degli imperi coloniali, ma l'approccio vincente in un contesto come in una guerra come quella afghana non può essere un approccio nel quale si guarda l'orologio, nel quale si dice beh no, stiamo lì 3 anni, no, forse 5, beh 10 al massimo. No, quello tipo di operazioni si fa dicendo dobbiamo raggiungere degli obiettivi e restiamo finché gli obiettivi non sono raggiunti. In realtà l'Afghanistan fa scappare tutti, ha fatto scappare i sovietici, prima ancora i britannici, oggi la NATO, non tanto perché i guerriglieri, i mujahideen, oggi i talebani siano in grado di vincere questa guerra, perché questa guerra loro non la possono vincere finché la NATO resta lì, e questo non c'è dubbio, ma alla fine tutti abbandonano l'Afghanistan perché l'Afghanistan probabilmente assorbe, richiede più risorse anche in termini finanziari di quanto invece riesca a dare in cambio, insomma, quindi stare in Afghanistan ci costa di più di quello che in realtà possiamo incassare da una presenza prolungata in quel paese. Quindi oggi l'accordo strategico firmato da Karzai e da Obama è un accordo che ha un valore politico, lascia Karzai libero dal giogo americano, dalle pressioni americane, gli dà in cambio un po' di aiuti e dei soldi garantiti per gli anni successivi al ritiro della NATO, e dà agli americani e all'Occidente la possibilità di dire beh noi ce ne andiamo, lasciando l'Afghanistan in mano a un governo effettivo in carica, che però rischia di poter durare veramente poco o comunque di non poter controllare, come già oggi non riesce a fare, buona parte del suo territorio. Gianandrea, dicevi in precedenza ci sono al momento 4.000 soldati italiani impegnati in Afghanistan, dopo il disimpegno della NATO quanti militari italiani rimarranno nel paese, appunto impegnati nel futuro in questi compiti di addestramento delle truppe afghane? Si hanno notizie a riguardo? Allora, ufficialmente no perché il governo italiano, questa è poi una triste consuetudine in tutti i conflitti, è forse uno dei pochi che non ha ancora ufficializzato le tappe del suo ritiro, del suo disimpegno, e non ha ancora ufficializzato, almeno presso l'opinione pubblica, quella che sarà invece l'impegno successivo al 2014. Però pochi giorni fa un articolo che non ha avuto smentite, molto documentato sul quotidiano La Stampa, ha fatto invece un quadro molto preciso Del ritiro italiano e anche di quello che dovrebbe essere il nostro impegno successivo al ritiro delle forze che ci sono attualmente presenti, e dovrebbero restare a Herat 800-1000 uomini con compiti logistici ovviamente e anche di addestramento delle forze afghane. Tutti i paesi della NATO, chi più chi meno, stanno organizzandosi per lasciare dei reparti piccoli o grandi da qualche migliaio di soldati, come faranno forse i britannici o gli americani, a un migliaio o qualche centinaio, come faranno gli italiani e altri paesi, con questi compiti. C'è però una grossa incognita, che è quella che già si è verificata in Iraq. Gli americani hanno lasciato l'Iraq, avrebbero dovuto, in base agli accordi con Baghdad, mantenere appunto in Iraq alcune migliaia forse di consulenti, di istruttori, e anche di forze speciali per le operazioni contro i terroristi, però il Parlamento di Baghdad non ha approvato quell'intesa che di fatto impedisce alla giustizia irachena in quel caso di processare un militare americano alleato per crimini compiuti su quel territorio. E questo è un punto importante, gli americani, ma in genere la NATO, non schierano truppe in paesi che non consentono appunto questa esenzione da eventuali azioni penali dello Stato che li ospita per crimini compiuti in quel paese. È il motivo per cui il sergente Bates, che è stato responsabile dell'eccidio di civili a Kandahar, è stato portato dagli americani in Kansas, dove verrà processato dalla corte marziale, ma non è stato consegnato, come chiedevano invece gli afghani, alle autorità afghane, perché c'è un accordo che impedisce appunto che questo possa accadere. In Iraq il Parlamento iracheno non ha dato questa garanzia e gli americani sono venuti via tutti, e anche la NATO, che aveva una missione di addestramento. Il rischio è che anche il Parlamento di Kabul, dove ci sono molte forze che sono contrarie al mantenimento delle basi americane, di presenze alleate, possa nel 2014 non rinnovare questo accordo, appunto, che consente un accordo extragiudiziario che consente l'immunità giudiziaria ai soldati, agli istruttori militari alleati. Se questo dovesse accadere, nel giro di poche settimane tutte le forze alleate della NATO in Afghanistan se ne dovrebbero andare, per ovvie ragioni, e questo cambierebbe in maniera molto radicale le carte in tavola. Vorrei ritornare ad Al-Qaeda. Al-Qaeda è ora guidata da al-Dawawi. Chi è questo nuovo leader e che ruolo ha giocato? Secondo te è un leader carismatico come il suo predecessore? E per concludere, Ayman al-Zawahiri era il braccio destro di Bin Laden, un egiziano, è da sempre uno delle anime di Al-Qaeda, quindi non è da oggi che è considerato un nemico importante dagli Stati Uniti e dall'Occidente. E quando prese il posto di Bin Laden ci fu molto scetticismo, anche sui siti internet vicini al mondo jihadista c'erano alcuni riferimenti poco lusinghieri nei suoi confronti, considerato più un intellettuale che un combattente. Però in questo anno ha saputo dare nuovi stimoli all'organizzazione terroristica, e innanzitutto con azioni politiche più che militari, come il sostegno molto forte fin dall'inizio alle primavere arabe, che non erano certo nate sotto la spinta di formazioni estremiste islamiche, anzi il contrario. Ha dato un forte sostegno politico dichiarato alla causa dei ribelli libici contro Gheddafi, ed è stato molto, molto attento a guardare l'Africa. Infatti oggi molti analisti ritengono che sotto pressione in Pakistan e in Afghanistan Al-Qaeda stia cercando di riorganizzarsi e di trovarsi una nuova patria in alcune regioni africane. E infatti molti report anche degli ambienti dell'intelligence riferiscono che ci sono cellule molto forti legate ad Al-Qaeda oggi in Libia, ma soprattutto nella zona del Sahel, quindi in Niger, quindi in Mali, dove tra l'altro sappiamo che è in corso una guerra civile, ci sono le rivolte dei Tuareg nel nord del paese, vede la forte presenza di gruppi estremisti islamici e anche di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, che è da sempre nemica dell'Algeria, ma è che combatte anche contro altri governi. Quindi credo che Ayman al-Zawahiri abbia saputo rinnovare Al-Qaeda, dandogli nuovi orizzonti e cercando di portarla in un'area, quella appunto africana, dove non c'è una così forte presenza occidentale militare come c'è ad esempio in Medio Oriente o in Afghanistan, e dove Al-Qaeda è molto vicina anche all'Europa, e quindi ci sono anche forti preoccupazioni nei servizi di sicurezza europei, proprio perché il potenziamento della branca africana di Al-Qaeda potrebbe comportare una minaccia maggiore verso il vecchio continente. Allo scoppio delle primavere arabe si era detto che le idee di Al-Qaeda erano in declino nel mondo arabo, poi magari invece con diciamo così la seconda fase delle primavere arabe questa ipotesi è cambiata in parte, visto che comunque i fratelli musulmani o forze diciamo estreme hanno prevalso in alcuni scenari. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che non si possa confondere i fratelli musulmani con Al-Qaeda, anche se Al-Qaeda ha cercato nell'offrire appoggio, nel celebrare queste rivolte, ha cercato in qualche modo di inserirsi in questo grande cambiamento, che poi il cambiamento per adesso non sembra granché esserci, in Medio Oriente. Io credo che da un lato c'è l'iniziativa politica di Al-Qaeda di voler sembrare ancora attiva e di volersi ritagliare un ruolo forse più mediatico che effettivo in quello che sta succedendo nel mondo arabo. Però è chiaro che il fatto che l'inizio di questa primavera araba, che era scatenata da movimenti liberali, liberisti, libertari, poi finiti quasi tutti per non contare nulla e per lasciare questi paesi nelle mani di gruppi invece più radicali. Pensiamo non solo ai Fratelli Musulmani, ma soprattutto ai salafiti, che sono molto forti in Egitto, ma sono molto forti anche in Libia oggi. Ecco, questo tipo di svolta che sta facendo diventare la primavera un po' più freddina, direi un autunno-inverno, può creare un contesto nel quale anche un gruppo estremista storico e che comunque ha una sua tradizione e tanti successi da vantare, come i jihadisti, come appunto Al-Qaeda, possa crearsi possa ritagliarsi uno spazio. Non ci dimentichiamo che il caos della Libia, ad esempio oggi, nel caos della Libia le forze di Al-Qaeda sono molto in crescita e questo appunto è considerato una grossa minaccia soprattutto per l'Europa, che appunto è lì di fronte, in particolare per l'Italia, che è molto vicina a quei territori. Quindi io credo che Al-Qaeda abbia tutto l'interesse a... cavalcato porta al successo gruppi estremisti, ma Al-Qaeda può ritagliarsi comunque una sua nicchia. Non ci dimentichiamo che a Gaza, che è in mano ad Hamas, che è un gruppo che è una costola dei Fratelli Musulmani, Al-Qaeda da anni ha le sue cellule attive proprio in questo piccolo territorio sotto il controllo palestinese. Gian Andrea, mi fanno segno dalla regia che abbiamo un ultimissimo minuto prima di chiudere. Io ho un'ultima domanda. Abbiamo parlato prima del ruolo della NATO, una NATO che si prepara al disimpegno entro la fine del 2014. Quali riflessioni porteranno all'Alleanza Atlantica, porterà l'Alleanza Atlantica il compimento di questa missione in Afghanistan? Secondo te è possibile pensare che questa sarà l'ultima missione della NATO di questo tipo? Ma io questo non lo so, perché la NATO ufficialmente considera vittoria l'operazione in Libia, considera una vittoria anche la transizione in Afghanistan. Questo ovviamente sul piano politico. Sul piano militare credo che la NATO abbia dimostrato in questi ultimi 20 anni di avere una grande capacità di conseguire obiettivi, poi che siano vittorie o meno si stabilisce sempre dopo, quando l'impegno è tecnologico, quando con gli aeroplani si bombarda la Serbia e il Kosovo costringendo il nemico ad arrendersi, e quando con gli aeroplani o con i missili si colpisse la Libia di Gheddafi facilitando poi la vittoria dei ribelli. Nel momento in cui la NATO deve andare sul terreno a combattere con le truppe, boots on the ground, come si dice, con i soldati sul terreno che vanno a combattere faccia a faccia un nemico, come in questo caso i talebani, cominciano i problemi. Ci sono 50 paesi che hanno truppe in Afghanistan, ovviamente non solo della NATO, e ci sono 80 caveat, cioè eccezioni che i vari paesi pongono all'impiego delle loro forze. Sì, i miei soldati possono combattere, ma solo se attaccati, dice la Germania. Poi ha detto no, possono anche rispondere al fuoco e inseguire il nemico. Gli americani dicono no, gli inglesi anche, facciamo la guerra vera a tutti gli effetti. Quindi insomma, nel momento in cui si va a combattere sul terreno e quindi ci sono soldati che muoiono, ci sono perdite, la coesione della NATO vacilla. Lo si è visto un po' anche in Libia, dove in realtà i paesi della NATO che hanno fatto la guerra sono stati una dozzina e di questi solo la metà ha lanciato bombe sulla Libia. Io quindi credo che la guerra afghana metta in luce il fatto che la NATO resta una grande alleanza politica, ma quando si va sul campo di battaglia, quello terrestre soprattutto, ci sono molti paesi che fanno fatica a partecipare a questi conflitti. Il motivo è fondamentalmente quello che le società occidentali, credo, abbiano perso la percezione di che cos'è una guerra, per cui 50 caduti in 10 anni, come quelli che ha subito l'Italia, diventano un prezzo insostenibile, anche se parliamo di paesi che sono tra i più ricchi del mondo, ma soprattutto sono le più grandi potenze del mondo. Allora, se arriviamo al punto di non essere più in grado di gestire quello che una guerra comporta, perdite da subire e anche perdite da infliggere, allora dobbiamo chiederci se come Occidente, non solo come NATO, siamo ancora in grado di combattere guerre e quindi ancora di difendere con le armi i nostri interessi. Signor Andrea, siamo purtroppo giunti in chiusura di trasmissione. Ancora una volta ti vogliamo ringraziare per il tuo tempo e il tuo interessante contributo alla trasmissione di questa sera. Come sempre speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. A presto. Grazie ancora, buona serata. E non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori per la settimana prossima. Buona serata a tutti.